nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Bentrovate, bentrovati allora al vostro imperdibile appuntamento del sabato dalle 14 alle 15. Saremo un po' più brevi anche oggi come l'altra volta, perché alla fine ci sarà una rubrica dedicata al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove sarò con tutta la radio naturalmente sabato prossimo. Se avete voglia proprio di vedere De Visu, diciamo, se proprio ci tenete lì al Salone del Libro, ci saranno anche tanti ospiti, quindi pubblico da casa, al telefono, pubblico presente. Sarà una cosa molto movimentata. Vi ricordo che siamo al Padiglione 2, poi non dite che non ve l'avevo detto. Vi ricordo da subito il numero per intervenire, perché lo sapete, voi siete abituati ormai ad ascoltare da tanto tempo che lo scopo è quello di trovarci il sabato così un po' a chiacchierare insieme nel tinello dove volete voi e commentare, tornare a commentare i fatti della settimana insieme. Qual è la notizia che più vi ha colpito in questi giorni? 800 24 00 24, il numero verde per chiamare, 800 24 00 24. Come sempre ci sarà con me e questa volta accanto a me proprio in studio il mio opinionista estemporaneo della settimana, che avrà molte cose da dire. Sono molto curiosa di sapere come commenterà i fatti della settimana. Voi come li commenterete? Il numero lo sapete. Io intanto vi butto lì un po' di notizie, non ne avete bisogno, sono tantissime, però naturalmente quello che ha dominato tutta la settimana è diciamo l'uccisione con tutti i punti oscuri di Osama Bin Laden, poi la mozione sulla Libia votata in Italia, l'emergenza immigrazione, è arrivato un nuovo barcone questa notte con un altro migliaio di migranti, il decreto sviluppo varato dal Consiglio dei Ministri, il rinvio a giudizio, passiamo alla cronaca giudiziaria, il rinvio a giudizio sul caso Ruby per Fede, Mora e Minetti, il rinvio a giudizio di Guido Bertolaso per l'inchiesta sui grandi eventi, il rimpasto di governo, i moniti di Napolitano a destra e a sinistra, si può proprio dire con cognizione di causa, l'esercito che il Presidente del Consiglio intende mandare a Napoli per la spazzatura, lo sciopero generale della CGIL, insomma. Diciamo che ce n'è e ne avanza sempre moltissimo. Infatti sono qui il tavolo pieno di notizie e di cose che sottoporrò tra pochissimo all'opinionista estemporaneo. Intanto voi pensateci qual è la vostra notizia della settimana, quali sono i vostri commenti. 800 24 0024. Vi dicevo, il mio rito immancabile è anche quello di dirci ogni volta, di raccontarci che cosa questa settimana ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Ebbene, è una notizia che stavo guardando prima sulla stampa, sulla prima pagina. Si pensa alla danza, al ballo, specie nelle sale da ballo, come un momento così di relax, di evasione, qualcosa di disteso, di pulito. Invece no, manco lì, non sono più le sale da ballo di una volta, perché sono truccate le piste da ballo italiane. Lo scandalo travolge la federazione, tutta la federazione di danza sportiva, 65 indagati in tutta Italia, insomma. Sembra che le gare siano truccate, che qualcuno è destinato a vincere sin dall'inizio. Insomma, uno pensa ai concorsi, le altre cose, le raccomandazioni, pure nelle sale da ballo. Un'altra cosa che mi fa pensare che non ci siano più le mezze stagioni è che le donne non sono più quelle di una volta. Molti lo sapranno e le rimpiangeranno. Anche se diciamo poi in Italia la tradizione rimane, come vi ricordo spesso, ogni 2 o 3 giorni una donna ammazzata dal marito, ex marito, fidanzato, ex fidanzato, quindi tutto nella tradizione, tutto tranquillo, ci dà una certa continuità. Però invece Hillary Clinton ha detto in questi giorni, che ha fatto visita a Roma, che quei 38 minuti che ha vissuto guardando dalla sala della Casa Bianca il blitz in cui è stato ucciso Osama Bin Laden sono stati i 38 minuti più intensi della mia vita, ha detto. Io avrei pensato la vita passata, o il matrimonio, la vita passata con Bill Clinton, nonostante insomma l'incidente con la Lewinsky, diciamo, e per il resto uno pensa, momenti, no, una donna, i sentimenti sono quelli più intensi, invece no, questi 38 minuti vissuti. Bene, insomma, direi che a questo punto, fatte le nostre, i nostri riti consueti, possiamo andare alle notizie. 800 24 0024 e soprattutto, signore e signori, all'opinionista estemporaneo di oggi. Mario Giordano. Buongiorno a tutti. Che bella l'immagine del tinello. Mi piace il tinello. Il tinello, che non si dice neanche più, mia nonna lo diceva. Tu lo dici tinello ogni tanto? No, non lo dico più. Anche a casa mia, con mia mamma, c'è il tinello. Adesso non ci piace. Adesso cos'è? Il soggiorno. Soggiorno. Più bello tinello. Noi possiamo dire tinello. Parliamo di tinello. Mario Giordano, voi parlate così confidenzialmente perché avendo lo stesso cognome siete cugini, parenti, fratelli, zii. No, vero Mario? No, assolutamente no, nessuna parentela. Stavamo prima parlando dei percorsi di questo cognome, una cosa molto affascinante, dicevi tu Mario, no? Perché... Ma sì, che mi hanno raccontato che Giordano ci sono nuclei in Sicilia, in Campania e io sono piemontese, dove c'è un grosso nucleo. Mi dicono che sia il nome di Giordano, dei pellegrini di Giordano che tornavano del fiume di Gesù e che tornavano lungo la via del sale, quindi quella che poi dal Piemonte saliva verso la Francia, dove peraltro ci sono Jourdain, anche lì nuclei di cognomi simili. Certo, non so se sia vero, però me l'hanno raccontato. Affascinante, diciamo, suggestione questa cosa di scoprire. Comunque con Mario ci troviamo a avere lo stesso cognome, anche se lui è grande professionista, io nel mio piccolo, nel mio poco, insomma, sono qui a chiedergli tra pochissimo qual è la sua notizia della settimana. Intanto non ha bisogno di presentazioni, ma ve lo presento lo stesso, un giornalista notissimo, direttore di News Mediaset e editorialista del Giornale, di cui è anche stato direttore, ha scritto molti libri di inchiesta e l'ultimo lo vorrei introdurre, caro Mario, con una musica che tra poco il nostro maestro Roberto Scaltritti tra pochi istanti ci manderà. Che ho setacciato, proprio cercato con grande scrupolo in un archivio e l'ho trovata. C'avevo in mente che c'era una canzone che parlava di questo argomento. Intanto mi dici solo il titolo della tua notizia della settimana? Beh, la notizia della settimana non può che essere l'uccisione di Bin Laden. Inevitabile. Vabbè. Vediamo se anche per le ascoltatrici e gli ascoltatori sarà così. 800 24 00 24. Direi sì che possiamo introdurre il libro di Mario Giordano. Ed ogni giorno tutti al lavoro, dall'idraulico al barbiere, muratore, giardiniere, passano gli anni ad aspettare di pigliare la pensione, non dover più lavorare. E invece no, qualcuno se la prende la pensione, se la prende pure d'oro e la succhia proprio con tutta l'avidità da sanguisuga proprio. Gli altri invece chissà, forse io e Mario andremo in pensione verso i 70, forse io anche verso i 75, una roba così, Mario. Perché scrivi nella quarta di copertina, scusa, ti presenta così Mondadori con questo titolo appunto piuttosto inquietante, sanguisughe, sottotitolo Le pensioni d'oro che ci prosciugano le tasche, un libro che fa arrabbiare parecchio. Nella terza di copertina c'è scritto Mario Giordano, a 45 anni da sempre sogna di fare giornalista e da qualche tempo ha cominciato a sognare di poter andare un giorno in pensione. Dice insomma il primo sogno, come vi ho detto, lo ha realizzato ampiamente e poi nella sua ormai non più breve carriera di giornalista ha versato molti contributi. Gli dispiacerebbe assai se finissero tutti nelle tasche delle sanguisughe dalle pensioni d'oro. Dici un po'. Sì, il tema è proprio quello, che nel così complicato mondo previdenziale ci sono alcune persone a cui vengono costantemente chiesti sacrifici, quindi l'età che si allunga sempre di più, dovete lavorare sempre più anni, le pensioni minime che restano minime, su cui si accaniscono. Io apro il libro raccontando il caso di una signora proprio del Piemonte che aveva la pensione minima e su cui si sono accanite le trattenute INPS nel mese del luglio del 2010 e si è vista arrivare all'assegno di 0,78 euro, cioè 78 centesimi di euro, tre rotoli di carta igienica in sostanza. E poi invece ci sono appunto le pensioni d'oro, ci sono la pensione del pensionato più ricco d'Italia che prende 90.000 euro al mese, ci sono le pensioni dei parlamentari che da 30 anni prendono 3.108 euro al mese per essere stati un giorno, ma non un giorno per modo perché di dire. Perché ci devi avvelenare il fegato, Mario, così? Cioè. Perché queste cose avvengono, siccome il fegato ce lo dovremmo avvelenare, perché come dicevi tu ce lo dovremmo avvelenare in parte noi, ce lo avveleneranno i nostri figli, i ragazzi giovani che si affacciano con difficoltà sul mondo del lavoro e cui noi stiamo preparando un futuro incerto previdenziale, forse è il caso di non rassegnarci a queste situazioni, perché vedete, a me non scandalizza tanto la pensione alta in sé, perché se uno versa tanti contributi ottiene molto, benvenga, no? Ora, cioè... Il problema è che ci sono troppi sistemi, troppi privilegi per cui persone prendono soldi che non hanno versato, i cosiddetti contributi figurativi dei parlamentari, per cui Oscar Luigi Scalfaro prende 4.700 euro netti da ex magistrato, avendo fatto il magistrato 3 anni dal 43 al 46, dal 1988 prende questa pensione. Beh, i contributi figurativi sono costati alle tasche italiane 5 miliardi di euro negli ultimi anni. Le pensioni dei parlamentari costano alle tasche italiane ogni anno la differenza fra i contributi versati dai parlamentari, 15 milioni, e l'esborso, 219 milioni, sono 204 milioni di euro che vanno a carico delle tasse di chi lavora, dei pensionati al minimo, eccetera. Quindi io credo che fa finta di niente ci si ritorca contro. Dice un vecchio detto: ogni secondo e mezzo c'è un giro un pollo. Stai attento, se non vedi nessun pollo, il pollo sei tu. Ecco, forse evitiamo di non vedo polli in giro, i polli che siamo noi, caro Mario. Senti, ci sono già gli ascoltatori che premono, quindi all'800 24 0024, c'è cioè il nostro Giorgio De Luca, che lo vedo già con l'orecchio molto incandescente, e quindi sentiamo Bruno da Pescara che ci racconta. Bruno. Buonasera Roberta, è un piacere intervenire nella sua trasmissione, saluto. Grazie. Pure il suo ospite. Forse la mia domanda arriva a proposito, visto che il signor Giordano è un giornalista. Certamente. È un giornalista del giornale? Editorialista del giornale, è stato direttore del giornale, lunghissima carriera, adesso è direttore. Perfetto. Anche di News Mediaset. Perfetto. Sì. Volevo chiedere, visto che parlava di pensioni basse, eccetera, eccetera, riguardo ai nuovi sottosegretari che sono stati nominati alcuni giorni fa dal governo, alcuni di quali sottosegretari hanno cambiato casacca per ben 3 volte, quindi ogni commento è superfluo. Sì, un po' di giri li hanno fatti, diciamo la verità. Mi sbaglio o questi 9-7 segretari costano a noi, allo Stato italiano, al governo italiano, qualcosa come 3 milioni di euro? E poi volevo aggiungere, se il titolo che ha fatto questa mattina il giornale, il comunista non ci sta, non sembra un titolo un po' forte, rivolto a una persona che penso che a Napolitano, il comunista non ci sta, penso fosse rivolto a lui, rivolto ad una persona che penso che nel panorama politico italiano sia la persona oggi più equilibrata, a mio modesto parere, che ci sia. La ringrazio. Grazie Bruno, sentiamo cosa ne pensa Mario Giordano di questa cosa, cioè appunto del rimpasto di governo, no? Quindi nuovi sottosegretari, un pochino, diciamo Mario, anche per accontentare i responsabili che qualcuno insomma chiama in modo critico e sarcastico disponibili, nel senso che erano disponibili a cambiare casacca in qualsiasi momento, e Berlusconi, Presidente del Consiglio, ha promesso altri 10 incarichi prossimamente. Non si dovevano tagliare sottosegretari, troppi ministeri, troppe... Assolutamente sì, che non è comunque un segno positivo per le tasche di tutti noi e per le casse pubbliche la nomina di nuovi sottosegretari, che per quanto sono tutti parlamentari, quindi in realtà la differenza è minima, però che aggravano i conti pubblici, quindi sicuramente non è diciamo un segnale positivo. Perché da questo penso, punto Mario, di vista, sono ignorante in questo, scusami se ti interrompo, sì. Ma che un deputato, diciamo ordinario, tra virgolette, prenda un po' meno di un sottosegretario. Sì, prendono la differenza, guarda, c'è un bel articolo stamattina proprio sulla Stampa di Mattia Felti che spiega nei dettagli qual è il cambiamento dello status, c'è un incremento dello stipendio, un leggero, ma comunque significativo, aumento dello stipendio, e poi c'è in più l'auto blu, c'è l'auto blu con l'autista, che comunque è una differenza che anche dal livello di status e anche a livello di costi è rilevante. Quindi sicuramente è una spesa in più, una spesa che ci siamo arrivati. D'altra parte non si può fare a meno di notare che il costo di una crisi di governo in questo momento, in questi mesi in Italia, forse sarebbe stata anche peggiore. Quindi io credo che complessivamente, da questo punto di vista, questa è la mia opinione, la stabilità del paese in questo momento abbia un valore superiore al costo di questi sottosegretari. È vero che bisognerebbe andare in riduzione, è vero che in passato abbiamo avuto anche governi come l'ultimo governo Prodi, in cui addirittura gli incarichi erano 102, 103 rispetto agli attuali, che sono ancora al di sotto della media. È vero che molto spesso i costi sul taglio della politica si infrangono, perché è come chiedere ai tacchini di scegliere, no? Perché alla fine poi uno non sceglie mai di tagliare se stesso, quindi questo se possono aumentano. Man mano. Poi ci sarà Marco della provincia di Monza Brianza, si chiama così, 800 24 0024, sentiremo qual è la sua notizia della settimana. Poi mi piacerebbe anche sottoporre a Mario Giordano anche delle frasi della settimana che hanno commentato i tanti ascoltatori su Facebook. Vi ricordo che c'è sempre naturalmente la pagina dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni su Facebook, Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni, dovete cercare. E tra queste frasi 3 ce n'erano che hanno commentato in molti. Il monito di Napolitano, che ha detto: la sinistra sia credibile o resta all'opposizione. Poi Gianfranco Fini, che ha detto: quella di Berlusconi nei miei confronti è ormai un'ossessione che non merita più risposte politiche ma solo compassione. E Silvio Berlusconi, che ha detto: l'intesa tra il PD e l'UDC è un'unione contro natura. Cosa ne pensate di tutto questo e qual è la vostra notizia della settimana? Alcune frasi della settimana che molti frequentatori della pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni hanno commentato. E allora, per esempio, la prima frase, il monito di Napolitano alla sinistra, che ha detto: siate credibili, dovete essere più affidabili, altrimenti restate all'opposizione. Massimo ha scritto: se poi anche responsabile, l'opposizione ha detto, ha subito un posto nel governo. Insomma, diciamo, un po' facendo dell'ironia su quello che appena si stava dicendo. Poi dice: adesso, per non avere più compassione di Fini, Silvio deve avere anche lui almeno 5.000 euro, forse si riferisce, non so, alla compravendita, diceva, eccetera. Nessuno dei due minorenne, a proposito invece di quello che dice Berlusconi dell'intesa tra PD e UDC con Unione contro Natura, quindi diciamo, dice, possono fare quello che vogliono, insomma. E poi c'è Max che dice: un commento a tutte e tre le frasi. Dobbiamo impegnarci noi singoli, questi politici non possono farlo per noi e neanche vogliono. Daniele cosa ha scritto? Ho sentito argomentare a proposito di queste frasi, dice: nell'attesa dal parrucchiere con lo stesso tenore, quindi chiacchiera un po' da parrucchiere, e ho visto un bambino costruire cose più solide con i mattoncini del Lego. Sono piuttosto arguti questi facebookiani. Poi Gioacchino invece, caro Mario Giordano, il mio opinionista estemporaneo di oggi, che ha scritto Sanguisughe, questo libro del Mondadori che, diciamo, se volete leggerlo è di grande interesse, un'inchiesta sulle pensioni d'oro, può anche far ritorcere, diciamo, può avere delle conseguenze anche sul fegato, sul stomaco, eccetera eccetera. Gioacchino: da una prima lettura di queste frasi tutta d'un fiato, la prima impressione che ho ricevuto è stata una grande confusione. Da un lato c'è un Presidente della Repubblica che finalmente apre gli occhi alla sinistra, qualora non l'avesse capita, che forse, e Walter Veltroni dice, proponendo un governo ombra, forse voleva insegnare alla sinistra come si governa, forse, dice. Poi Gennaro: per la numero uno non so cosa ci possa essere ormai di credibile nelle nostre istituzioni, a proposito di quanto dice Napolitano della sinistra, cominciando dal Presidente della Repubblica in testa, quindi Gennaro critica anche lo stesso Napolitano. Per la numero due, cioè Fini, che ha compassione di Berlusconi, dice: ormai tutti sono ossessionati da Fini, da Berlusconi, Berlusconi dalla sinistra, sinistra da Berlusconi, Padani dai migranti e via dicendo. Direi che gli italiani sono un paese di ossessionati, ecco, questo potrebbe, che dici Mario? Ma no, sì, perché sai, mi sembra che l'osservazione che mi ha colpito di più è quella del, quello che parlava dei mattoncini dei Lego, perché alla fine poi ognuno può pensare come vuole su questi temi. Io per esempio ritengo che l'intervento che Napolitano in questi giorni si sia, come dire, esposto molto per essere un Presidente della Repubblica in due con un intervento, per cui forse si può ritenere forte il titolo del giornale, che è sicuramente un titolo forte, ma sicuramente segnala un tema di discussione evidente, che è quello che è un intervento di Napolitano che io ritengo in questo momento di cui non ci fosse bisogno in piena campagna elettorale. Così. Però il tema chiave di queste frasi qua è che mi sembra che siano tutte, appartengano a un chiacchiericcio davvero un po', che fra quattro giorni ce ne siamo dimenticati, ci saranno altre frasi che ci faranno discutere per altre settimane, un'abbondanza di settimane, ma che alla fine ci portano lontano invece dai problemi reali, dai dati concreti di un paese che alla fine rischia di dare l'impressione di non cambiare mai. E questo secondo me è il problema. I grandi temi oggi ci sono i temi dell'economia, sono i temi delle famiglie che il faticano ad arrivare alla fine del mese, del lavoro, sul tema delle pensioni, ci sono tanti temi concreti. Mi sembra che poi noi facciamo tempeste, no? Per cui, ma capita di partecipare a dibattiti in cui due ore si esamina da tutti i punti di vista, di tutte le cose, le discussioni, la frase di Napolitano, una frase che, ripeto, fra tre giorni ci saremo tutti dimenticati. Già dimenticata. E poi proseguono i commenti adesso c'è Monica, per esempio, che dice: Napolitano dovrebbe fare il presidente senza esprimere pareri politici. Dice poi: Fini ha perso la bussola, è dura passare da amici a nemici, sta pagando politicamente il suo risveglio dall'eterno letargo. E poi c'è Andrea che dice: perfettamente ragione Napolitano, mi sono ricreduto nei confronti del nostro presidente, alla sua elezione ero scettico, invece si sta dimostrando uno dei migliori presidenti della nostra storia. E poi Corrado dice: sia anche incredibile, ci sorprenda più pena che compassione per Berlusconi, dice. E poi abbiamo il Visconte di Mezzato, così si firma un facebookiano: anche per fare l'opposizione occorre essere credibili, quindi si dia da fare per essere credibile la sinistra. E poi c'è l'uccisione di Bin Laden, ci sono tutti i commenti e ci sono Claudio, Gennaro, Robert Bellotti, Monica, Max, tutti che effettivamente esprimono, anche con una certa ironia molto apprezzabile, insomma, comunque, diciamo, dei dubbi su questa scomparsa. Tant'è, caro Mario e care ascoltatrici e ascoltatori, che vedevo una serie di ipotesi che vengono da vari, anche sui siti Facebook, per esempio. Sono almeno 100 i gruppi che fanno delle ipotesi diverse, e ve ne do qualcuna. I sostenitori, per esempio, del fatto che lui sia morto da tempo, in realtà, ritengono che Osama sia stato eliminato da tempo e che il Blitz è una finta quinta operazione. Alcuni dicono che non c'è alcun cadavere, altri affermano che il cadavere di Osama c'era, ma è stato ibernato tempo fa. Quindi, allora, io mi chiedo, poi sentiamo tra poco Marco e poi Angela, chiedo anche a voi ascoltatori, sentiamo subito i vostri pareri. Le foto, insomma, è vero, raccapriccianti, non raccapriccianti, sarebbero la prova per tutti, perché altrimenti c'è questo stillicidio di ipotesi, di cospirazioni, di illazioni, di qualsiasi tipo, che andrà avanti all'infinito. Però ancora prima delle foto io mi chiedo, che bisogno c'era di sbarazzarsi del cadavere così fretta e furia, insomma, i pochi istanti? Sentiamo Marco della provincia di Monza Brianza. Buongiorno. Buongiorno caro Marco. Grazie di avermi dato la possibilità di parlare. Io ascolto la 24 ogni tanto quando lavori. No, ogni tanto è un po' poco. È un po' poco, sono, Marco. Sono i commenti interessanti che girano sulla nostra, il nostro mondo. Dunque, è quello che ha detto lei, in effetti, secondo me, diciamo il centro, il fulcro del discorso. Che senso ha oggi, 10 anni dopo la morte di un Bin Laden, che già prima aveva 10 anni dopo la morte, nel momento in cui era un pastore in mezzo alle campagne, che poi ha avuto la sua storia ovviamente con l'America e tutto il resto, e che l'America in qualche modo ha rivestito di un senso simbolico del suo motivo di guerra, e adesso che lui muore così nessuno lo vede, nessuno sa niente. Cioè, a me sembra veramente un po' di giocare su quelli che sono dei punti, dei tasti emotivi della gente per decentrare o portare l'attenzione come vogliono loro in questo momento, in modo particolare forse c'è qualche loro motivo per averlo fatto, però sicuramente non è una cosa che, al di là forse del discorso di vedere queste immagini che sento dire che sono molto scioccanti e tutto il resto, sicuramente chi è toccata questa fine, che in questa immagine è stato filmato, che sia Bin Laden o no, è sicuramente una cosa magari abbastanza triste o cose del genere. Io non le ho ancora viste, non ho la televisione e non sono ancora stato curioso. No, Marco, non sei quel tu che non le hai viste, non l'ha vista nessuno per il momento. Sicuramente qual è il senso di questa morte, di questo chiusura, di questo arco che è durato 10 anni? In qualche modo c'è un motivo sicuro. Marco, ti ringrazio. Ci siamo sentiti poco, ma ho capito bene che cosa volevi dire. Adesso abbiamo però l'unica trasmissione al mondo questa che ha anche un collegamento extraplanetario, proprio per avere anche, diciamo, dei punti di vista differenti. Prego. Riflessioni da Marte. Che tempi si vivono laggiù sulla Terra, cari umani, e che tempi si vedono da quassù, su da Marte, col mio fido telescopio. E mentre nell'aereo riecheggia una domanda di carattere internazionale, no, non è quella se vivo o se morto per davvero, ma questa. Cascengo, chi è questo? Cascengo, chi è questo? Preciso che non la si voleva far sentire questa domanda qui da Marte, poiché qualcuno l'ha ritenuta raccapricciante, ma poi il dovere della trasparenza ha prevalso. Dicevo dunque, mentre riecheggia sullo scenario internazionale la suddetta, anzi la sussentita domanda, continuando a scandagliare gli orizzonti internazionali, le imponderabili vicende umane, viene da pensare. Che strani, incredibili incroci a volte nella vita terrestre, con il cambio di una sola consonante, un Obama abbatte un Osama. E così, mentre un Osama scende negli abissi marini, un Obama risale nei consensi, con il cambio, pensate appunto, di una sola consonante, tanto da aver indotto a diversi lapsus, ecco, diciamo, in questi giorni. Strana la vita a volte, tutto questo mentre in tanti si chiedono tuttavia che fine avrà fatto veramente Mr. Bean? Mr. Bin Laden. Intanto sappiatelo subito, se non vi fossero chiare le dinamiche rocambolesche e articolate dell'assalto delle forze speciali americane al palazzo di Bin Laden, non vi preoccupate che quanto prima provvederà Bruno Vespa a rendervi più chiare le manovre del blitz con un plastico costruito ad hoc nella dimora di Bin Laden, con incluse anche tutte le 150 galline presenti nel cortile, che del resto potrebbero avere un ruolo chiave nella vicenda. Certo però l'ironia della sorte, tutti si immaginavano un Bin Laden amante della montagna, un riducibile montanaro con mitra in una mano e picozza nell'altra, e poi lui non solo era cittadino urbanizzato, ma è finito in fondo al mare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Ironia della sorte, si diceva, in fondo al mare di Sorrento, una volta chiaro che quel corpo estraneo che si vedeva non era Bin Laden, si sperava di aver trovato finalmente un UFO vero e proprio dopo decenni di incessanti illusioni extraterrestri, e invece quell'abnorme massa gelatinosa era un uovo di calamaro, probabilmente, però, tanto per darsi un contentino, un uovo di calamaro alieno. E ancora, a proposito di mare, a qualcuno non è piaciuta la norma del decreto sviluppo del governo che allunga la concessione delle spiagge ai privati per 90 anni, praticamente veramente per un secolo, si potrebbe dire, caspita, un secolo è più di un'esistenza. Sarà forse dovuta questa concessione secolare al fatto che si è allungata l'aspettativa di vita e quindi presumibilmente anche quella dei privati forniti di spiagge, perché si sa, l'aria di mare fa tanto bene. Spiagge immense da sola te, spiagge già vissute, amate poi perdute in questa azzurrità, fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. E rieccoci dunque qui, Angela da Bergamo, eccoci, 800 24 00 24. Pronto? Angela, ci siamo. Sì, intanto complimenti alla sua trasmissione che io seguo sempre con piacere. Grazie Angela, dunque, piacere di ci io chiedevo, volevo sì. sentire il suo parere a proposito di questo fatto. Come mai, come può un mezzo mediatico far diventare famoso anche ciò che è estremamente incolore, discutibile? Alludo alla Zanzara che ogni sera, o almeno molto spesso, ci impone le assurdità, le stupidate che dice questo personaggio che ci riporta. Aggressivo, villano, fastidioso, insopportabile, offensivo, tanto da definire Parenzo un parto anale. Angela, mi chiedo come mai può essere fatto di un personaggio simile un campione di frasi memorabili. Angela, senti, intanto Scilipoti penso che si renda da sé campione di frasi memorabili, poi non giudico le altre trasmissioni della radio, io parlo della mia, lì Angela dovresti parlare direttamente con chi la fa e con chi la conduce, però giro immediatamente, glisso, spostando su Mario Giordano un giudizio possibile su Scilipoti dei responsabili, diciamo un personaggio piuttosto, come si può dire, pittoresco. Sì, è pittoresco, però è il classico, cioè mi sembra che poi ci sia stato un accanimento particolare, nel senso che come abbiamo visto non solo in una direzione ma in un altro, diciamo il mondo politico, in modo particolare di questo Parlamento, no? In cui c'è un legame molto scarso con le preferenze, in cui come si dice i parlamentari vengono nominati dall'altro, non ci sono riferimenti, per cui abbiamo visto spostamenti da una parte e dall'altra, in un senso o nell'altra, mi sembra che Scilipoti poi un po' perché ci ha giocato lui, un po' perché ha la physique du rôle, si è diventato un po' il simbolo di tutto quello che viene fatto, per cui da questo punto di vista io fa poi come dire diventa anche pretesto per gag e per battute, anche per trasmissioni che come dire sfruttano di più il lato comico e divertente, proprio come era Mastella una volta per certi versi, ci sono dei personaggi in che parte, hanno non fino a questo punto non diciamo. Fino a questo, però ci sono è stato come si chiamava quello della commissione vigilanza Rai, Villari, è tornato fuori da pochissimo. Ci sono ogni tanto di tanto in tanto i personaggi che si prestano, hanno questo momento di celebrità che io credo loro stessi sfruttino in modo dichiarato ed evidente, e quindi insomma fa parte un po' di questa grande trasformazione del sistema in cosa mediatico in cabaret. Ah no, pensavo che stessi in cabaret, della grande sforzo mediatico. Se mi permetti, però l'ascoltatore di prima diceva io non capisco il senso di Bin Laden. Io su questo voglio dire il senso di Bin Laden, adesso non vorrei che ci sfuggisse anche qua in mezzo, cioè lui dice di non farlo vedere, qual è il senso? Dice dopo 10 anni che la gente ha aspettato, il senso di non farlo vedere, io sono d'accordo perfettamente con lui, ma il senso della vicenda è chiaro, cioè il senso della vicenda mi sembra evidente, dopodiché io sono pieno di dubbi e di domande. Anch'io. Oggi credo che con la conferma di Al Qaeda sia arrivata, diciamo, sull'uccisione di Bin Laden io non avrei in questo momento dubbi sul fatto che sia stato ucciso, ma su come è stato condotto il blitz sì, e tanti. Basti pensare, faccio un esempio solo. Quando io mi occupo per mestiere, spesso di cronaca, no? Gli esami del DNA ci vogliono settimane, a volte mesi. Infatti con la sorella che era morta anni prima negli Stati Uniti, no? In 20 minuti ci è andato l'esame del DNA. Cioè sul caso di Bergamo, di quella povera ragazza Yara Gambirai, non c'è ancora celebrato il funerale, il suo corpo è stato trovato il 26 febbraio, stanno ancora facendo gli esami. In Bin Laden, perché volevano essere sicuri di forse tutto. Bin Laden ha una corsia preferenziale come i taxi. Accidenti. Poi è scivolato in mare, probabilmente sarà scivolato dall'elicottero mentre trasportava. Era già... cascato. È vero, diciamo che è una sommersione un po' dubbia questa, perché proprio mai in pasto ai pesci, mi sembra, no, da Montanaro, che era, come dicevamo, c'è tra pochissimo Lucio da Napoli, che abbiamo però una pausa tra pochi istanti. Quindi Lucio, se vuoi dirci giusto il tema della tua notizia della settimana e noi ci risentiamo immediatamente dopo. Che dici, Lucio? Va bene. Bene, siamo d'accordo, sono contenta. Quindi Lucio, dici. Cioè, io praticamente, secondo me, cioè, in maniera provocatoria sarebbe stato addirittura meglio non dirlo addirittura dell'operazione Laden. Che era defunto. Considerato in effetti quanto siano pericolose queste persone che stanno attorno a Bin Laden, quindi meno se ne parla. Io dico che l'America fa bene a non far vedere queste fotografie, ma se fossi stata l'America addirittura, cioè, ovviamente sarebbe venuto fuori, si sarebbe detto indirettamente via di seguito, ma lasciare in effetti le cose così senza parlarne per fare in modo. Ci sono che le elezioni anche negli Stati Uniti però, tra un po'. Prego? Ci sono le elezioni anche negli Stati Uniti però, non solo in Italia. Sì, l'anno prossimo. Sono d'accordo anche con lei. Poi per quanto al proprio a lei, dottor Giordano. Era proprio solo il titolo che doveva dire, Lucio. Sì, io preferisco più quando leggerla che se ad ascoltarla, perché praticamente tutti questi anti-Berlusconi che tirano fuori tutte queste che si indignano dei responsabili e via di seguito, quando la politica è stata sempre fatta così, bisognerebbe praticamente rintucciarla in maniera molto più forte, perché solo pretestuose sono queste osservazioni. No, che ha detto Mario Giordano? Scusa Lucio, che non sei d'accordo. Non mi pare. No, non sono d'accordo quando praticamente ha parlato del costo dei sottosegretari e via di seguito. Non costano. Certo, ma se questo governo si è dovuto formare con ha avuto bisogno della terza gamba, è logico che dovevano venire fuori anche in effetti i rappresentanti di questa terza gamba, quindi non ci sta neanche da pensare ai costi, perché di costi ce ne stanno e il dottor Giordano ne sa molto più di me. Ha scritto sanguisughe, poi lo puoi leggere. Sì, i costi ci sono, però io ho detto prima e ribadisco che il costo di una crisi di governo sarebbe stata molto più seria e importante del costo della politica, però non possiamo negare che una crescita di sottosegretari non sia una cosa che va nella direzione dei tagli della politica che tutti noi, credo, auspichiamo. Commentiamo però le notizie di questa settimana, la settimana prossima commenteremo le altre, con Mario Giordano, il mio opinionista estemporaneo di oggi, ma che lo fa anche di mestiere, giornalista, editorialista del Giornale, di cui è stato anche direttore poi adesso di News Mediaset, ha scritto diversi libri d'inchiesta, dicevamo l'ultimo questo, Sanguisughe sulle pensioni d'oro che, diciamo, impoveriscono le nostre tasche. Moltissime le notizie, abbiamo parlato di vari aspetti, ritorniamo forse su Bin Laden, non lo so, con 800 24 0024, con numero verde c'è Alessandro da Milano. Qual è la tua notizia, Alessandro? Buondì, complimenti per la trasmissione. No, la mia notizia è proprio qui, il sanguisughe. Questa è la notizia per me più importante, perché le altre notizie ormai ne abbiamo fin sopra i cappelli da tutte le parti. Volevo tornare un attimino e chiedere al giornalista, se gentilmente, quali sono le aree sociali da cui provengono questi sanguisughe? Qual è il meccanismo per cui sono pervenuti a diventare questi satrapi, diciamo così, della finanza pubblica? E anche possibilmente, io stento a credere, ma chi sono quelli che prendono, ma ha detto quasi 900.000 euro l'anno? Un po' di nomi, un po' di categorie le citate, sì, comunque, perché, Alessandro. Così, ringrazio il giornalista per questo libro. Sei contento, Mario? Sì, no, ringrazio, sono una combinata, no? Anche questo non è un mio parente, neanche lui. Ci tengo, siamo sicuri, vabbè, poi verificheremo. Lo ringrazio. E le categorie sociali sono le più diverse. Ovviamente c'è un capitolo importante, ne abbiamo citato alcuni casi, che è quelli della politica, non è solo quello. C'è un ampio capitolo che riguarda il sistema dei banchieri, e ci sono, nel libro troverete tutte le pensioni incredibili dei banchieri. Ci sono i grandi manager, i manager che prendono il 90.000 euro sono manager che derivano dal fondo dei telefonici. Ci sono naturalmente i magistrati della Corte Costituzionale, col meccanismo che vanno tutti in pensioni da presidente, anche qua prendono in media 20-21.000 euro al mese, 600-900.000 euro di liquidazione, più tutti i benefit, auto, eccetera. I politici di cui si parlava, no? I politici, ho detto, è al primo posto. Non solo quello. Poi ci sono una serie di leggi particolari, per esempio si parlava prima delle baby pensioni, no? C'è stato il grande scandalo delle persone, qui noi continuiamo a pagare le pensioni, sono andate in pensione a 29 anni, una pensionata a 29 anni non ha ancora 60 anni, anni e sono già 30 anni che le prende la pensione. Però quella legge è stata cambiata, ma oggi ce ne sono altre. In Sicilia c'è una legge per cui dal 2003 al 2010 abbiamo avuto oltre 1000 baby pensionati che sono andati in pensione con l'età media di 50 anni. Un grande burocrate della regione Sicilia è andato in pensione nel 2009 a 47 anni con 6.000 euro netti, 11.000 euro lordi a 47 anni. Quindi voglio dire, ci sono varie categorie. Io ho provato a fare un elenco puntuale facendo nomi e cognomi, proprio perché il problema è questo: non c'è un unico, neanche solo la casta dei politici, sono tantissimi, tantissimi mondi, e perché proprio perché la previdenza è un sistema complicatissimo, molto complicato, all'interno del quale si nascondono spesso cavilli, piccole leggi, leggini che bisogna andare a vedere, selezionare per cercare almeno qualcuno di cambiarla. 800240024. Volevo però farvi così, diciamo, un po' rilassare con della musica adesso, per introdurvi anche un'iniziativa assai interessante del Sole 24 Ore, che sta per uscire con una collana. Sono 25 storie di jazz in 25 CD book, tutte dedicate appunto a questa grande musica che viene dall'America, il jazz. Sentite in sottofondo, mi zittisco, Ella Fitzgerald. Night breezes seem to whisper I love you. Insomma, sognante in edicola ogni giovedì, quindi dal 12 maggio al 12 maggio trovate questi 25 CD book del Sole 24 Ore dedicati al jazz. Credo che Mario ne acquisterà immediatamente la prima, tutta la collezione. Assolutamente sì, per avvicinarmi a una musica di cui sono abbastanza ignorante, quindi ti piace come, oppure sei ignorante perché non te ne sei interessato? No, io sono, diciamo, complessivamente non sono un grande esperto di musica, quindi conoscerò e avvicinerò molto volentieri. L'ho proprio costretto a dire questa cosa. No. Intanto, mentre tra poco, dopo la viabilità, ci raggiungerà anche via telefono Stefano Andreoli di Spinoza.it con la satira politica, direi di sentire ancora Biagio e poi Marino. Biagio da Napoli. Sì, ciao, buongiorno, complimenti per la trasmissione, volevo fare un commento. Biagio, mi senti? Biagio? Sì, senti, mi sento. Ma tu quando entri nel parlare di introduzione dici velocemente complimenti per la trasmissione, secondo te è una specie di obbligo, lo dici come una specie di password per entrare? No, guarda, perché guarda, in questa trasmissione io vedo che l'unica trasmissione dove si parlano delle cose attuali e sì, serie praticamente. Ah, molto bene. Come allora, compra anche il jazz lui? Compri anche il jazz, Biagio, anche il jazz del Sole 24 Ore, compri? No, dice Mario, allora, Giordano. Guarda, no, subito così. Faccio un'attività che praticamente, insomma, sono molto impegnato. Insomma, sto viaggiando e stavo sentendo, come sento di solito, sempre Radio 24. Quindi non c'è tempo per ascoltare il jazz, vabbè. E niente, allora, il mio commento era riguardo praticamente l'uccisione di Bin Laden. Sì. Allora, penso che, io non è che sia un anti-americano, sono una persona che apprezzo moltissimo l'America, cioè, insomma, per il suo stile di vita, insomma, per quello che è praticamente tutto il ragionamento, la cultura, un paese, insomma, multietnico, però questa mi sembra un'altra americanata, come di solito succede quando ci sono avvenimenti come tipo questo qua. Cioè, praticamente la prova inconfutabile per me del fatto veridico che insomma, è stato ucciso Bin Laden era solo mostrando praticamente il corpo di Bin Laden, come hanno fatto con Che Guevara, Rosa, praticamente. Allora, non è che noi penso che ci dobbiamo sorprendere di quello che, insomma, possiamo vedere, perché noi vediamo delle scene, insomma, atroce tutti i giorni, certo, insomma, dalla televisione. Allora, non penso che questo sia stato un metodo, ma non più che altro per nascondere, perché le cose potevano essere così orribili, ma penso che tutto il mondo, non solo il paese americano, aveva bisogno di avere questa prova inconfutabile. Io credo di sì, se no, come dicevamo, veramente finiscono su supposizioni e illazioni all'infinito, e questo dubbio che legge già tutti i dubbi della storia del mondo, a partire dai nostri e dell'Italia, insomma, ma anche del resto del mondo, diventa veramente un avvelenamento, diciamo, una congestione, un'ingestione di dubbi che alla fine, insomma, già abbiamo tanti dubbi nella vita così a livello esistenziale. E come sempre al galoppo, e questo ci dà un ritmo perché ci invita anche a correre verso la fine, arriva il nostro Stefano Andreoli, l'autore, il papà, il fautore, l'inventore di Spinoza.it, il blog di satira più cliccato della rete, così dice sempre lui, quindi io ripeto, tale quale. Fra l'altro, già pregusto il momento in cui la prossima puntata della Fiera di Torino, sappiate, sarà lì accanto a me in carne e umorismo, diciamo così, se possiamo chiamarlo in umorismo. In carne, suo, ossa e frattaglie sarò lì con te. Ma... certa. Che roba cruenta. Sei ora capricciante anche tu, no? Quindi non ti si può mostrare. Un pochetto, diciamo. Comunque, tra una settimana esce in anteprima al Salone del Libro di Torino il secondo episodio della saga libraria di Spinoza, ovvero Spinoza 2, Una risata vi disseppellirà. E quindi in anteprima universale praticamente sei da me, è vero? Mondiale lo presenteremo appunto a Non ci sono più le mezze stagioni. Benissimo. Direttamente da Torino. Sono molto saluto il tuo ospite, caro Roberta, Mario Giordano. Certo. Un amico di Spinoza, Mario Giordano disse, se non ricordo male, divertenti come un paracarro in una serata di nebbia, ecco. Questa frase io l'ho fatta mia, è veramente bella e mi lusinga, colgo l'occasione per ringraziarlo. Potresti assumerlo, poi dopo chiederemo a Mario. Potrei, chiaramente qui bisogna riassumere la settimana, ma c'è un fatto che più di altri sta catalizzando i media oramai da giorni. Cioè l'uscita del tuo libro, no? Quella abbiamo già detto. Quella è seconda, in pole position ancora la morte di Bin Laden. Certo, inevitabilmente. Bin Laden ucciso, una beffa per Osama, era a soli 4 mesi dalla prescrizione, quindi pensa un po' proprio sul finale. Che coincidenza pazzesca. Esatto, sì. Sul finale proprio Bin Laden ucciso, ma del resto è un po' la sorte di tutti i testimoni chiave, quindi è un po' un copione già scritto. Già visto. Nell'operazione, nel blitz delle forze armate statunitensi, arrestate anche 2 mogli e 6 figli di Bin Laden. Ancora vivo è un genio, perché in effetti se è ancora vivo questo poteva essere un espediente per liberarsene. Bin Laden si nascondeva in un complesso residenziale di lusso. Beh, di lusso non tanto, c'era 150 lusso, galline, c'era un po' di chiodi fuori, cose arrugginite. Misurandolo nei dintorni, diciamo. Comparandosi. Ogni tanto si divertiva a minacciare i vicini dal videocitofono, era un po' così che si è tradito. I suoi video tipici, sì. Era l'unico al mondo che quando sentiva il campanello sperava fossero i testimoni di Geova, perché in effetti l'unico persona sicuramente no, questo non avrebbe fatto nulla, almeno loro. E invece le forze armate, poi diffuso anche questa notizia, quando è stato ucciso Bin Laden aveva in tasca 500 euro. Soldi per l'equivalente di 500 euro. Quindi era chiaro in Europa. Era chiaro, insomma, che non sarebbe arrivato a fine mese. Questo intendo dire. Quindi era scritto il suo destino nelle tasche. Esatto, appunto. Al-Qaeda, proprio mentre tutti stavano dubitando, Al-Qaeda conferma la morte di Bin Laden. Se lo dicono loro. Quindi, se lo dicono di loro, ci si può fidare. Quindi io mi fido, paradossale, ci si fida più ciecamente, di loro degli americani. Concludo con appunto una notizia. Siamo pronti con la mannaia, vero? Sì. No, ma non no, perché sull'ultima volta tu fai il fuochi. No. Mi fido diffuse, come di Al-Qaeda, sì. Diffuse in anteprima le ultime parole di Bin Laden. Chi è? Chi è? Chi bussa? Più o meno sì. Bene, via mamma! Ci ha fatto la sorpresa, un po' di suspense. Bene, a questo punto dobbiamo proprio lasciarci quindi vi ricordo che c'è la pagina Facebook dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni, vi ricordo che ci ritroviamo al Salone del Libro di Torino il 14 maggio sabato e con Mario Giordano che ha scritto Sanguisughe. Che cosa concludiamo? Vuoi rispondere ridere, a Stefano? Dopo spinoza.it, ridere fa bene, indignarsi un po' fa bene, l'importante è non rassegnarsi, per cui ho cercato di scrivere un libro e di dargli continuità. Qui ci sono tanti su internet, anch'io un Sanguisughe su internet, ho il sito blog, ho un sito su Facebook, per un gruppo su Facebook per raccogliere tutti, vi aspetto tutti per non smettere di ridere e di indignarsi, fermo anch'io come un paracarro in una serata di nebbia. Oh mamma mia, sono un po' rischioso. Grazie Mario Giordano, Sanguisughe, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.